cosa arriverà. Un aggettivo, un verbo, una parola. Mandami soltanto la punteggiatura. Scrivimi, ti sorprenderà. Sarà bisogno di spiegarti. Mi guardo nello specchio per capirti. Non c'è solo sabbia nei deserti. La sincerità di certi silenzi ci spacca. Sotto i fanali.